Europa 24. Buon pomeriggio da Gigi Donelli. Poco fa i ministri dell'interno di Francia e Gran Bretagna, Bernard Cazeneuve e Theresa May, hanno firmato un accordo in risposta all'emergenza migranti a Calais, che prevede mezzi supplementari per la sorveglianza dell'Eurotunnel e per il trattamento delle domande d'asilo e anche alcune misure di lotta al traffico di esseri umani. Tutto questo quando ieri l'Europa ha diffuso i dati delle richieste d'asilo dei profughi nei primi sei mesi del 2015. Il dato è davvero impressionante, sono infatti 400.000, mai un risultato così alto. Allora cambiamo un po' la nostra scaletta e sentiamo subito il servizio in cui abbiamo raccolto le informazioni complessive su questa ondata di richieste. Sentiamolo. Accoglieremo 200 profughi siriani a patto che siano di fede cristiana. La decisione della Slovacchia, diffusa da un annuncio del Ministero dell'Interno, suona come una discriminazione, ma per il ministro Ivan Metik, intervistato dalla BBC, si tratterebbe di una questione di opportunità. Non abbiamo moschee e i musulmani si sentirebbero a disagio, ha commentato lapidario Metik. Tutto questo avviene nel giorno in cui l'Europa ha diffuso i dati sulle richieste di asilo dei profughi. Solo nei primi sei mesi del 2015 si registrano 400.000 domande. Nel 2014 erano state 600.000. L'impennata ha messo in guardia l'UE, che parla di crisi migratoria globale e della necessità di azioni congiunte e coraggiose. A Berlino il ministro dell'interno, Thomas de Maizière, ha lanciato l'allarme. Dobbiamo prepararci a 800.000 richiedenti accoglienza. A Vienna invece il governo minaccia di portare la Commissione UE di fronte alla Corte di Giustizia europea se non sarà rivisto il regolamento di Dublino. Quel che è certo è che la prima tappa della roadmap europea per affrontare l'emergenza è la Grecia. Il 25 e il 26 agosto un vertice comunitario si svolgerà nel Pireo per applicare l'approccio hotspot con centri di smistamento tra richiedenti asilo e migranti economici. Daniela Brunzo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Grecia che, come dire, sembra ritrovare una sorta di equilibrio dopo l'accordo sottoscritto da tutte le parti per il terzo piano di intervento. Dopo il rimborso alla BCE da 3,4 miliardi di euro, il governo greco deve ora affrontare una scadenza da 7,6 miliardi entro la fine del 2015. L'anno più pesante sarà questo per le casse di Atene in termini di pagamento dei debiti. Per l'anno in corso, infatti, il governo deve rimborsare complessivamente 18 miliardi di euro tra BCE, Fondo Monetario, finanziamenti di titolo di Stato a breve termine. Naturalmente tutto questo tenendo conto del via libera al maxi piano di intervento europeo proprio per rimpinguare le casse di Atene. Cambiamo tema, una 007 estone di nome Cover, condannato ieri da una corte di Pskov a 15 anni di reclusione, a una multa di 100.000 rubli per spionaggio, contrabbando di armi e violazione delle norme di confine. Tallinn sostiene che l'ufficiale stava indagando su un contrabbando che coinvolgeva agenti dell'intelligence russa e che sia stato dunque portato in Russia dopo essere stato sequestrato in territorio estone. Mosca invece dice che Cover è stato arrestato dopo che aveva varcato la frontiera e che svolgeva attività di spionaggio. Il capo della diplomazia europea Federica Mogherini ha sollecitato la Russia a liberare l'agente condannato appunto a 15 anni. La UE continua a fare appello alla Federazione Russa perché agisca nel rispetto dei suoi obblighi internazionali e rilasci Cover immediatamente. Questa la richiesta da parte appunto di Federica Mogherini, un ennesimo caso di grave tensione negli ultimi tempi, ormai si moltiplicano, tra Unione Europea e Russia. Infine vi ricordo che le borse europee sono segnate dai timori sulla crescita economica internazionale, dunque una mattinata di calo generalizzato, proprio Atene a oltre il 2% e Milano oltre l'1,20, Francoforte, Parigi, Madrid e Londra tutte negative. Naturalmente i dati che arrivano in particolare sul fronte cinese e quindi le informazioni, i dati che riguardano la discesa del prezzo del petrolio, insomma, non alimentano ottimismo sulla crescita e la ripresa. Bene, con questo è tutto per questa edizione di Europa 24. Il prossimo appuntamento naturalmente domani alla stessa ora. Un saluto. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.